così bella l'armonia in questa nostra casa nuova. Sembra poco ma è un miracolo. Questo giardino non confina, divide solo noi dal mondo, mentre tu bevi con le rondini. Io, tra fiori freschi e viaggi, io sono tornata sempre fortunatamente in tempo per renderti la luna che mi dai. Inconsapevole mi dai, senza chiedere mi dai. Arriviamo dove vuoi. Hai qualcosa dentro di te che funziona, che funziona, che funziona. Di una foto e non ti sposti dalle regole. Io tra canzoni e viaggi io sono tornato sempre fortunatamente in tempo per renderti la voglia che mi dai. Ho preferito la tua vita e riesco a farlo quasi mio questo tuo essere difficile. Qualcosa dentro di te che funziona, che funziona, che funziona. Hai qualcosa dentro di te che ripara quando tutto sembra fine. Non dimenticare, non dimenticare che la casa nasce per lasciare fuori il mare. Per ricominciare, yeah. Qualcosa dentro di te. Na, na, na, na, na, na, na, na. Qualcosa dentro di te. Hai qualcosa dentro di te che ripara quando tutto sembra fine. Così bella l'armonia in questa nostra casa nuova, in questa nostra casa nuova.